Capitolo 9. Stanza della torretta Windy Willows, 20 aprile. Mio povero e caro Gilbert, del riso dissi è pazzo e dell'allegria che fa? Credo purtroppo che presto mi verranno i capelli bianchi. Credo purtroppo che finirò i miei giorni in un ospizio. Credo purtroppo che nessuno dei miei alunni passerà l'esame. Sabato sera il cane del signor Hamilton mi ha abbaiato contro e credo purtroppo di essere diventata idrofoba. Credo purtroppo che mi si rovesci l'ombrello quando questa sera andrò in passeggiata con Catherine. Credo che Catherine ora mi voglia bene e che purtroppo non potrà volermene sempre tanto. Credo purtroppo che i miei capelli non siano affatto color rame. Credo purtroppo che a 50 anni avrò un neo sulla punta del naso. Credo purtroppo che la scuola non sia a prova d'incendio. Credo purtroppo che stasera troverò un topo nel letto. Credo purtroppo che tu ti sia fidanzato con me perché ero sempre in giro. Credo purtroppo che tra non molto avrò da ridire su tutto e su tutti. No, tesoro, non sono impazzita, non ancora, ma la cugina Ernestine Bagel è contagiosa. Ora so perché Rebecca Dew la chiama signorina purtroppo. La poveretta ha già esaurito a parole la sua quota di guai e deve essersi indebitata fino al collo con il destino. Ci sono tanti Bagel a questo mondo, forse non tutti allo stadio estremo della cugina Ernestine. Guastafeste che temono di godere il presente pensando al futuro. Gilbert, caro, cerchiamo di non avere mai paura, è una tremenda schiavitù. Cerchiamo di essere audaci, intraprendenti e fiduciosi. Andiamo a passo di danza incontro alla vita e ciò che ci porterà, anche se si dovesse trattare di un mare di guai, di tifo e di gemelli. Oggi era una giornata di giugno, donata all'aprile. La neve si era sciolta e i prati strinati e le colline dorate intonano un inno di primavera. Sono sicura di aver sentito il flauto di Pan nella valletta verde del boschetto d'aceri e il re della tempesta era avvolto da un'eterea foschia viola. Ha piovuto molto ultimamente ed era una delizia starsene al riparo nella mia torretta nelle ore quiete del crepuscolo primaverile. Ma questa sera c'è una concitata atmosfera di burrasca. Anche le nuvole che corrono in cielo hanno fretta e la luna, che si affaccia a tratti, ha fretta di inondare il mondo di luce. Pensa, Gilbert, se ora stessimo camminando, mano nella mano, su una delle lunghe strade di Avonlea. Gilbert, credo proprio di essere scandalosamente innamorata di te. Non pensi che sia irriverente, vero? E del resto, beh, non sei un pastore. Capitolo 10. Sono così diversa, disse Hazel con un sospiro. Era davvero terribile essere tanto diversa dagli altri, eppure anche meraviglioso, quasi si fosse nate su un altro pianeta. A nessun costo Hazel avrebbe voluto essere una persona comune, nonostante soffrisse per la sua diversità. Oh, siamo tutte diversissime, disse Anna con tono divertito. Lei sorride, disse Hazel, giungendo le mani bianche e paffute, guardando Anna con adorazione. Enfatizzava almeno una parola in ogni frase. Il suo sorriso è affascinante, incanta. Appena l'ho vista, ho capito che ci saremmo intese. Noi due siamo sullo stesso piano. A volte penso di avere uno spirito medianico, signorina Shirley. Quando conosco qualcuno, so istintivamente se mi andrà a genio. Ho sentito subito che lei era comprensiva, che avrebbe capito. È così bello essere capite. Nessuno mi capisce, signorina Shirley, nessuno. Ma quando l'ho vista, una voce interiore mi ha suggerito: lei ti capirà, con lei potrai essere te stessa. Oh, signorina Shirley, bisogna sempre essere se stesse, vero? Oh, signorina Shirley, lei mi vuole appena un po' di bene? Sei una cara ragazza, disse Anna con una risata, passando le dita sottili tra i riccioli d'oro di Hazel. Non era difficile voler bene a Hazel. Hazel aveva appena finito di confidarsi con Anna nella torretta. La luna era appena sorta sulla baia e il crepuscolo della serata di fine maggio chiudeva i calici vermigli dei tulipani sotto le finestre. Aspettiamo ad accendere la luce, aveva implorato Hazel, e Anna aveva risposto: sì, si sta bene qui in compagnia del buio. Appena accendo la luce il buio diventa ostile e si affaccia ai vetri con cipiglio. Cose così io le penso, ma non riesco ad esprimerle tanto bene, sospirò Esel estasiata. Lei parla la lingua delle viole, signorina Shirley. Esel stessa non avrebbe saputo spiegare il significato di queste parole, ma non aveva importanza, erano poetiche e tanto bastava. La camera nella torretta era l'unica camera tranquilla della casa. Quella mattina Rebecca Dew aveva detto, con il panico nella voce, bisogna assolutamente tappezzare il salotto e la camera degli ospiti prima della prossima riunione del comitato femminile di beneficenza. Si era quindi data a sgomberare dai mobili le due camere suddette per far posto al tappezziere, il quale si era poi rifiutato di venire fino al giorno dopo. Quindi Willows era in uno stato di totale confusione, risparmiato soltanto alla camera nella torretta. Era risaputo che Eselmar aveva una cotta per Anna. I Mar erano appena arrivati a Summerside, essendovisi trasferiti da Charlottetown durante l'inverno. Esel era una bionda ottobrina, come le piaceva definirsi, con capelli del colore dell'oro brunito e occhi castani. A sentire Rebecca Dew, non aveva combinato nulla di buono al mondo da quando si era accorta di essere bella. Ma Esel godeva di molte simpatie, specialmente tra i ragazzi che trovavano i suoi occhi e i suoi riccioli una combinazione irresistibile. Ad Anna era simpatica. Qualche ora prima era stanca e un po' giù di corda, come succede a chi ha sgobbato tutto il giorno in un'aula scolastica, ma ora si sentiva riposata e non sapeva se darne il merito al venticello di maggio, carico del profumo dei meli in fiore, o alle chiacchiere di Esel. Forse il merito era di tutti e due. Esel ricordava in certo modo ad Anna gli anni dell'adolescenza, con gli entusiasmi, gli ideali e la visione romantica della vita. Esel prese la mano di Anna e vi accostò riverentemente le labbra. Odio chi le ha voluto bene prima di me, signorina Shirley. Odio le persone a cui lei vuole bene. Voglio avere l'esclusiva sul suo affetto. Beh, non ti sembra di ragionare in modo assurdo, mia cara? Tu vuoi bene ad altre persone oltre a me. E Terry, allora? Oh, signorina Shirley, è proprio di questo che volevo parlarle. Non riesco più a tacere, non ci riesco. Devo parlarne a qualcuno che mi capisca. L'altro ieri sera sono uscita e ho girato e rigirato attorno al laghetto del giardino per tutta la notte. Beh, comunque fino a mezzanotte. Ho sofferto tanto, tanto. Esel assunse un'aria tragica, per quanto era compatibile con il viso tondo, bianco e roseo, la cascata di riccioli e le lunghe ciglia. Come? Cara Esel, credevo che tu e Terry foste felici, che tutto fosse sistemato. Anna non aveva tutti i torti a crederlo. Nelle 3 settimane precedenti, Esel non aveva affatto che parlarle di Terry Garland. Il concetto di Esel era infatti questo: a che serve avere un ragazzo se non ne parli con nessuno? È quello che credono tutti, commentò tristemente Esel. Oh, signorina Shirley, perché la vita è piena di problemi imbarazzanti? A volte vorrei mettermi lunga distesa, intrecciare le mani e non pensare più. Mia cara ragazza, cosa c'è che non va? Niente, è tutto. Oh, signorina Shirley, posso dirglielo? Posso mettere a nudo la mia anima? Certo, cara. Solo qui posso mettere a nudo la mia anima, disse Esel con aria patetica. E nel diario, naturalmente. Mi permetterà un giorno di mostrarle il diario, signorina Shirley? È un'autoconfessione. Eppure non riesco a scriverci i miei sentimenti intimi. Mi blocca. Esel si portò una mano alla gola con gesto melodrammatico. Certamente lo vedrò volentieri se ti fa piacere. Ma qual è il problema tra te e Terry? Oh, Terry. Signorina Shirley, mi crede se le dico che Terry mi sembra un estraneo? Un estraneo, un perfetto sconosciuto, aggiunse Esel a scanso di equivoci. Ma Esel, credevo che tu lo amassi, dicevi. Oh, lo so, credevo anch'io di amarlo, ma ora so che sbagliavo. Oh, signorina Shirley, lei non può immaginare quanto sia difficile la mia vita, anzi, impossibile. Penso di saperlo, disse Anna con comprensione, ricordando Roy Gardner. Oh, signorina Shirley, sono certa di non amarlo abbastanza per sposarlo. Me ne rendo conto ora, ora che è troppo tardi. È stato il chiaro di luna a farmi credere che lo amavo. Se non fosse stato per il chiaro di luna, gli avrei chiesto tempo per pensarci, ma sono stata travolta dall'incantesimo. Lo capisco ora. Oh, fuggirò. Compirò un gesto irreparabile. Hazel, cara, se ti sembra di aver commesso un errore, perché non glielo dici? Oh, signorina Shirley, è impossibile. Sarebbe ucciderlo, mi adora? No, non c'è proprio via di uscita. E Terry incomincia a parlare di matrimonio. Pensi un po', alla mia età ho solo 18 anni. Tutte le amiche che sanno il segreto del mio fidanzamento si congratulano con me. Ah, è proprio una farsa. Pensano che Terry sia un buon partito perché al compimento dei 25 anni entrerà in possesso di 10.000 dollari. E li ha lasciati la nonna, come se fossi tanto meschina da pensare al denaro. Oh, signorina Shirley, perché il mondo è tanto venale? Perché? È venale sotto certi aspetti, ma non sotto altri. E se i tuoi sentimenti per Terry sono questi, tutti sbagliamo. A volte è difficile leggere in noi stessi. Oh, davvero? Sapevo che lei mi avrebbe capita. Io credevo sul serio di volergli bene, signorina Shirley. Quando l'ho conosciuto non ho fatto altro che guardarlo per tutta la sera. Se per caso incontravo il suo sguardo, mi si annebbiava la vista. Era tanto bello. Però ho pensato anche allora che aveva capelli troppo ricci e ciglia troppo chiare. Avrebbe dovuto bastare per mettermi sull'avviso. Ma io le cose le faccio con tutta l'anima, lei lo sa. Sono passionale. Quando lui mi veniva vicino, sentivo dei brividi di emozione e ora non provo niente, niente di niente. Oh, signorina Shirley, in queste ultime settimane sono diventata vecchia. Vecchia. Non mangio quasi più da quando mi sono fidanzata, lo chieda mia madre. Sono certa che non lo amo tanto da sposarlo. Nonostante tutti i miei dubbi, di questo sono sicura. Allora non sarebbe il caso. Anche quella sera, se c'era la luna e lui mi ha fatto la dichiarazione, io pensavo a come mi sarei vestita al ballo in maschera di John Pringle. Pensavo che mi sarebbe piaciuto presentarmi come reginetta di maggio, con un abito verde chiaro, roselline tra i capelli e un rametto adorno di nastri rose e verdi. Incantevole, vero? Poi non ti va a morire lo zio di John? Così è tutto sfumato. Ma il punto è che non potevo amarlo se pensavo a tutt'altro, vero? Non so. A volte la mente fa strani scherzi. Non credo di avere voglia di sposarmi, signorina Shirley, né ora né mai. Ha per caso una limetta qui? Ho le unghie in disordine. Tanto vale che le sistemi mentre chiacchieriamo. Non è fantastico scambiarci queste confidenze? Non è cosa da tutti i giorni. La vita ha le sue esigenze. Beh, che cosa stavo dicendo? Ah sì, Terry, che devo fare? Signorina Shirley, vorrei un suo consiglio. Oh, mi sento come un animale in trappola. Ma Hazel è tanto semplice. Oh, non è affatto semplice, signorina Shirley. È tremendamente complicato. La mamma è al settimo cielo per la contentezza, ma non la zia Jean. A lei Terry non va a genio e tutti dicono che ha tanto buon senso. Io non voglio sposarmi, sono ambiziosa, voglio fare carriera, a volte penso che vorrei farmi suora. Non sarebbe magnifico essere la sposa di Gesù? La Chiesa Cattolica ha molti lati affascinanti, non crede? Però io non sono cattolica e farsi suora non è una carriera. Ho sempre pensato che mi piacerebbe fare l'infermiera. È una professione romantica, vero? Asciughi fronti madide di sudore e poi curi un bel paziente milionario che si innamora di te e ti porta in luna di miele nella sua villa in riviera, baciata dal sole del mattino e affacciata sulla distesa azzurra del Mediterraneo. Mi sembra di vedermi. Sono sogni campati in aria, lo so, ma incantevoli. Impossibile cancellarli e preferire la prosaica realtà di un matrimonio con Terry Garland e di una casa a Summerside. L'ipotesi fece rabbrividire Hazel, che guardò con occhio critico l'unghia appena limata. Credo, incominciò Anna, non abbiamo niente in comune, sa, signorina Shirley, lui non è tipo da poesie e frasi romantiche, invece io ne vado matta. A volte credo di essere una reincarnazione di Cleopatra, o forse di Elena di Troia, comunque una di quelle donne languide, seducenti. Ah, a volte ho pensieri e sensazioni che sono uno splendore. Se questa non è la spiegazione, allora non so proprio da dove mi arrivano. Terry pensa solo al lato pratico delle cose. Lui non è la reincarnazione di nessuno. Lo dimostra il suo commento quando gli ho detto della penna di Vera Fry. Ma io non ho mai sentito parlare della penna di Vera Fry, disse Anna pazientemente. Oh, davvero? Credevo di avergliene parlato. Le ho detto tante cose. e il fidanzato di Vera le ha dato una penna ricavata da una piuma d'ala di corvo. Le ha detto: quando la userai, il tuo animo si librerà nell'empireo come l'uccello a cui un tempo apparteneva. Non è meraviglioso? Terry non ha saputo dire altro che quella penna si sarebbe consumata presto, specialmente se Vera scriveva quanto parlava, e che comunque non gli risultava che i corvi si librassero nell'empireo. Non ha capito la frase e il suo significato recondito. Eh sì, ma qual era? Oh, già, già, liberarsi nell'empireo, staccarsi dalle zolle di questa terra. Ha mai fatto caso all'anello di Vera? È uno zaffiro. Secondo me gli zaffiri sono troppo scuri per un anello di fidanzamento. Preferirei il romantico cerchietto di perline che ha lei. Terry voleva darmi subito l'anello, ma io ho detto non ancora. Mi sembrerebbe un vincolo irrevocabile, sa? Non mi sentirei così se lo amassi davvero, non crede? Penso proprio di no. È stato meraviglioso poter dire a qualcuno quello che provo. Oh, signorina Shirley, se potessi essere di nuovo libera, libera di penetrare i misteri della vita. Terry non mi capirebbe se glielo dicessi e so che ha un brutto carattere, come tutti i Garland. Oh, signorina Shirley, se lei fosse tanto gentile da parlargli, da dirgli quello che sento. Lei è meravigliosa e lui si lascerebbe guidare dalle sue parole. Ezel, mia cara ragazza, come mai potrei? Non vedo perché no. Ezel limò l'ultima unghia e posò la limetta con aria tragica. Se non può lei, allora non ho più speranze. Ma io non posso, non posso assolutamente sposare Terry Garland. Se non ami Terry, dovresti dirglielo, anche se la prenderà male. Un giorno, cara Ezel, ti innamorerai davvero e non avrai dubbi. Sarai sicura dei tuoi sentimenti. Io non amerò mai più nessuno, disse Ezel con calma glaciale. L'amore è fonte di dolore. Sono giovane, ma questo l'ho imparato. Non sarebbe la trama ideale per uno dei suoi racconti, signorina Shirley? Beh, devo proprio andare. Non mi ero resa conto che fosse tanto tardi. Mi sento proprio meglio dopo essermi confidata con lei. Ho intinto l'anima nel regno delle ombre, per parlare come Shakespeare. Deve essere Pauline Johnson, disse Anna cortesemente. Beh, sapevo che era qualcuno, qualcuno che ha vissuto. Credo che dormirò questa notte, signorina Shirley. Praticamente non dormivo più da quando mi sono trovata fidanzata con Terry, senza minimamente rendermene conto. Ese si ravviò i capelli e mise il suo bel cappellino con la tesa foderata di rosa pallido e le guarnizioni di roselline. Le stava talmente bene che Anna non poté trattenersi dal darle un bacio. Sei un incanto, cara, disse spontaneamente. Ezel restò immobile, poi alzò gli occhi, attraversò con lo sguardo il soffitto della camera, quindi il solaio soprastante, e fissò le stelle. Non dimenticherò mai questa meravigliosa serata, signorina Shirley, mormorò rapita. Mi sembra che la mia bellezza, ammesso che io ne abbia, sia stata consacrata. Oh, signorina Shirley, è terribile aver fama di essere bella e temere che chi incontri pensi che sei meno bella di quanto gli avevano detto. È una tortura. A volte resto così mortificata perché mi sembra di capire che li ho delusi, ma forse sono solo fantasie. Ho tanta fantasia, troppa, temo, sa? Era anche una fantasia credere di essere innamorata di Terry. Oh, signorina Shirley, lo sente il profumo dei meli in fiore? Essendo dotata di olfatto, Anna lo sentiva. Non è divino? Spero che il paradiso sia fatto di fiori. Sarebbe facile essere buoni vivendo in un giglio, vero? Beh, forse sarebbe un po' limitativo, disse Anna volutamente prosaica. Oh, signorina Shirley, la prego, non sia sarcastica con chi l'adora. Il sarcasmo mi fa avvizzire come una foglia. Beh, mi domando come riesce a essere ancora viva dopo tutte quelle chiacchiere, disse Rebecca Dew, quando Anna rientrò dopo aver accompagnato Ezel all'angolo di Spooks Lane. Non so come fa a sopportarla. Beh, mi è simpatica, Rebecca, davvero. Anch'io ero una gran chiacchierona da bambina. Mi chiedo se chi doveva ascoltarmi mi trovava sciocca, come a volte appare Ezel. Lei non l'ho conosciuta da bambina, ma sono certa che non era così, disse Rebecca. Lei, quando parlava, aveva da dire qualcosa, anche se poi si esprimeva in modo strano. Invece Ezel Marr non ha proprio niente da dire. È latte scremato che si camuffa da panna. Oh, esagera un po' nelle sue manifestazioni, come tutte le ragazze, ma io credo che intenda in parte quello che dice, disse Anna. Forse perché non aveva molta stima di Terry, Anna era portata a credere alle parole di Ethel. Secondo lei, per Ethel non era un buon affare sposarsi con Terry, nonostante i 10.000 dollari in arrivo. Anna considerava Terry un farfallone pronto a innamorarsi della prima ragazza che gli facesse gli occhi dolci, salvo innamorarsi con altrettanta facilità di qualcun'altra, se la prima lo mollava o lo lasciava solo troppo a lungo. Quella primavera Anna aveva visto parecchio Terry, perché spesso Ethel le aveva fatto fare la parte del terzo incomodo. Era destinata a vederlo ancora, perché Ethel andò a visitare dei parenti a Kingsport e durante la sua assenza Terry diventò per Anna un accompagnatore fisso. Si davano del tu, perché avevano più o meno la stessa età, ma Anna provava per lui una specie di affetto materno. Terry era orgogliosissimo del fatto che l'intelligente signorina Shirley sembrasse gradire la sua compagnia. Una sera, alla festa di Mary Connell, nel giardino illuminato dalla luna e chiazzato dalle mobili ombre delle acace, Terry diventò sentimentale. E Anna gli ricordò scherzosamente Ethel. «Oh, Ethel», disse Terry, «quella bambina!» «Ma con quella bambina tu sei fidanzato, vero?» disse Anna severamente. «Non proprio fidanzato, una simpatia tra giovani, credo. Credo che il chiaro di luna mi abbia preso la mano.» Anna prese una rapida decisione. Se a Terry importava davvero poco di Ethel, per lei era meglio perderlo. Forse era un'occasione mandata dal cielo per districarli tutti e due dalla situazione in cui si erano impegolati e da cui, intransigenti come tutti i giovani, non sapevano come uscire. «Già», continuò Terry, fraintendendo quel silenzio, «sono in un bel guaio, lo ammetto. Temo che Ethel abbia preso tutto troppo sul serio e non so come farle capire che ha sbagliato.» L'impulsiva Anna assunse un'espressione materna. «Terry, siete un paio di bambini che giocano a fare i grandi. Ethel non tiene a te più di quanto tu tenga a lei. A quanto sembra siete tutti e due stati vittime della luna. Lei vorrebbe liberarsi dall'impegno, ma teme di dirtelo per paura di turbare i tuoi sentimenti. È una bambina romantica e confusa, e tu sei un ragazzo innamorato dell'amore, ma un giorno o l'altro riderete di tutto questo.» «Mi sembra di essermi espressa bene», pensò Anna compiaciuta. Terry sospirò. «Mi hai tolto un peso, Anna. Ethel è un tesoro, naturalmente. Mai avrei voluto farle del male, ma da settimane ormai avevo capito il nostro errore. Quando si incontra una donna, una vera donna, non vorrai rientrare, Anna? Perché non approfittare di questa bella luna? Ai raggi della luna sembri una rosa bianca, Anna. Anna? Ma Anna era fuggita.»